Ora ci spostiamo un attimo, anche per cambiare un secondo argomentazione, e andiamo a Firenze. Parleremo con un compagno che ci spiegherà cosa è successo a Firenze l'8 marzo. Ciao, ci senti? Bene, Ciao, sì, io sì. Voi? Dai. bene, forte e chiaro, forse anche troppo. Quindi devo abbassare il volume. Allora, niente, a quanto pare, dimmi se sbaglio. L'8 marzo a Firenze c'è stata un'occupazione della Casa delle Donne, della Magnifica, ma... Realtà non solo come Magnifica, ma varie collettività della città femministe e transfemministe. Perfetto, allora ora ci spiegherai meglio, magari se ci vuoi fare l'introduzione ci spieghi anche proprio la storia della Magnifica e il percorso appunto in città. La Magnifica è un collettivo transfemminista nato principalmente da varie compagne di già altri collettivi che dopo varie chiacchiere durante il lockdown si sono iniziate a organizzare riguardo la questione di uno spazio femminista e transfemminista in città e fino ad arrivare al primo tentativo a settembre del 2020 con la prima occupazione che è durata 4 giorni, con lo scopo di creare appunto una casa delle donne a Firenze. Appunto, il primo tentativo è durato 4 giorni, poi c'è stato uno sgombero in pompa magna, finito dopo una giornata di resistenza sul tetto. Poi c'è stato un secondo tentativo a gennaio, finito in 30 minuti con l'irruzione della Digos che ha rotto la porta a manate, e il tetto non era ancora, non siamo riusciti a raggiungerlo. E dopodiché l'8 marzo c'è stato questo terzo tentativo. Diciamo che la progettualità è quella di aprire uno spazio transfemminista a Firenze che sia uno spazio di vita comune transfemminista, quindi tra donne e proce in modo autogestito, sia uno spazio anche sociale per cose che mancano a noi donne e froce nella città di Firenze, dalle consultorie autogestite a qualsiasi necessità abbiamo di base. E l'8 marzo, appunto, abbiamo tentato di nuovo, non più solo come Magnifica, ma con varie realtà, tra cui una grossa componente studentesca che la mattina si è mossa in corteo molto carino. E dopodiché c'è stato questo tentativo di occupazione. A cui le guardie, nonostante noi ci eravamo fatte un po' in testa un film, vabbè dai, non se lo accollano l'8 marzo di sgomberare uno spazio femminista, e invece non è andata così. Fortunatamente ci hanno messo un bel po' ad aprire le porte, quindi quantomeno l'occupazione non è durata 3 ore, e di base poi hanno sgomberato verso il tardo pomeriggio, sono riusciti ad entrare, hanno sgomberato. Quello che è boh, un po' da segnalare è stato che c'è stata una resistenza molto carina fuori, soprattutto durante il presidio antisgombero. Un esperimento molto carino in cui per ben 2 o 3 volte le guardie diciamo, sono state allontanate dalla porta dell'occupazione. Ed è stata una cosa molto carina e simpatica, dopodiché poi ce l'hanno fatta comunque. E vabbè, questo è il resoconto della giornata dell'8 a Firenze, almeno. Sì, pronto, mi senti? Sì. Sì, ok, no, pensavo fosse caduta la linea. E va bene, niente, allora, ci hai anche descritto un po' la storia e volevo sapere, se non mi sbaglio, forse ieri c'era stata un'iniziativa a riguardo in continuità con la situazione dell'8 o comunque c'è un'iniziativa che ci sarà a breve, c'è un'iniziativa Sì. programmata? C'è stata una prima chiamata pubblica di assemblea pubblica post sgombero. Da lì abbiamo deciso di intanto iniziare con un percorso per il quale, ok, ci hanno tolto lo spazio, ma non per questo lo sgombero deve essere finito. Quindi uscirà poi un comunicato, diciamo, di chiamata sia di convergere un po' su Firenze, sia di dare solidarietà contro lo sgombero, anche se lo sgombero c'è stato. E il prossimo appuntamento pubblico per ora è domani in Piazza d'Azeglio alle 3, e dopodiché ci muoveremo appunto per capire come innanzitutto dare più risonanza a questo sgombero che è passato quasi nel silenzio e poi come muoverci noi perché comunque non abbiamo alcuna intenzione di fatte tre, fare la quarta ormai non costa nulla, quindi non c'è alcuna intenzione di tornare indietro sui passi. E appunto lo slogan che ci stiamo rivendicando è: lo spazio delle donne a Firenze ci sarà, appunto, e basta. Quindi di base continueremo. E vabbè, poi sia su canali social o meno social, gireranno informazioni a riguardo delle punte, chiacchiere, iniziative, eccetera, eccetera. Ok, perfetto. Allora, con l'augurio di risentirci magari in un momento più maggiormente propizio Spero. di non parlare solamente degli sgomberi. Speriamo di risentirci, ti ringraziamo per la disponibilità. Grazie a voi. Grazie mille, ci sentiamo presto. Grazie Dai, a te. Ok, ciao a tutti, ciao. ciao, ciao, buona serata. Allora, abbiamo sentito il compagno che ci ha spiegato un po' il percorso della Magnifica a Firenze e quello che è successo l'8 marzo. Ora continuiamo, ci sentiamo un po' di musica, ci sentiamo un pezzo dei Radical Staff, che è uno dei primi gruppi rap che fanno in realtà anche un po' di funk, dove c'è anche un rapper molto famoso, Chaos One. Questo pezzo si chiama Stop Frontin', poi torniamo in diretta sempre con Cronache di Regime, sempre sulle frequenze streaming di Mala Radio. A message to all the motherfuckers that think to be the best. Your mama's waiting, so you better return your nest. I see suckers with stock in black act like gangsters. W-H-I-T-E, Franksters, boys. Hanging around with dangerous toys just to brag and make some noise. But none of them reckon that. Trouble is trouble, and that's what you're stepping at. Gangs riding around with black Cadillacs. Black glasses, waxing asses, rolling. Smoking crack, wasting time. The first to pull the triggers, the first to commit a crime. And that is the street deal. Living like a tramp behind a piece of steel. Black, colored or white, your blood is red. Yes, I'm back to step, I'm back to stepping in out of the mouth of disrespect. So I went in a time to move my fucking lips so quick. Mr. Smith, the style, I get something about the people over the front and front and yes, it's the easy way to get paid. So give me the chance to rock, I'll demonstrate your mistake, punk. Look at the funk anytime you want. I really don't give a fuck about that. People don't try that I'm rocking and in my hometown. Rather for your slowdown. Shut the fuck. You're nothing about the clown who suck when you stop and listen. I'm sick of the way you listen. Before you started to talk, you get out of check it. And if your brain is on the right position, me connecting. All you gotta do, you gotta stop your fucking bullshit. Oh, chill fact. If you wanna slip in the plastic bag. Tell you something, ever had a clock, would I tell you? Nope. If I smack my bitch silly, would I tell you? Nope. If I fuck the brother in the back of his dome, would I tell you? Nope. Your shit's not dope. You need to go to fake home and wash your mouth out with soap. Your fake fraudulent esquire, trying to play hard, get bent by my fire. Check it while I wreck it, cause I got style. Got style by the mile. Down the rock, the party, make the freaks get wild. The radical I represent. Action never frontin'.